Drago, dobbiamo cominciare. Cosa no? Cos'è? Cos'è? Rimandiamo. Ma cosa? Lasciami in pace. Ho visto, sai che ho visto? Caronte. Drago, cerca di essere più infantile, cerca di essere divertente. Vabbè, aspetta, cioè, cerca essere, di essere, è facile, aspetta. Voglio dire, dobbiamo far chiedo asilo. Tento, tento, tento, tento! Ma cos'è sto fischio? Drago, ma hai il nuovo apparecchio acustico? Ma funziona? Le 5 meno un quarto. Non vuole lei, ma se lui sa che lei è una lui, sai che guai, sono sei, sono lei. Non c'è mai qualcuno che non lo sa. Lei vuole lui, ma se lui è una lei, poi lei cosa fai? Sei in guai, sono guai. Non so quasi mai se è un lui o una lei. C'è nel senso? È che sai, c'è un po' di ambiguità. Facciamo, fai con me, fai, Drago con me, con me, Drago tutte con cose. Me. Ma me mi mo mu. Dai. Ma me mi mo mu. No, me, me. Non è che devi fare i tenore sardi, devi scaldare la voce. Ma me mi mo mu. Faccio da solo oggi, dai, levati, via. K, cosa c'è oggi? Ti vedo, sei tutto rigido, devi essere un po' più sciolto, capito? Perché sei rigido. Vabbè, ho capito, sono rigido, a volte può servire, Pensa a due bambine cinesi che fanno Non ti dice niente? No, non mi dice niente, come mi dice come che tu hai dei problemi. Dici? Chiedo asilo. Capodanno! Lingue di Medellin! Buon anno! Dammi un bacio! No, vabbè, forse meglio di no! È quasi Capodanno! È quasi. Beh, sì, è il 30, allora, cos'è tutto poi sto domani casino? È il 31. Silenzio lì! Non è adesso Capodanno! Poi Capodanno è il primo giorno dell'anno, non è l'ultimo giorno dell'anno. Perché sennò sì, vabbè, ma, se, resto, ma Drago, è come la logica del perineo, cioè... Ma come? Ma sì, perché... Ma sì, il perineo perché... tu ce l'hai... No, ce l'ho come ce l'hanno tutti. Non ce l'ho qua in fronte, Drago, ce l'ho da un'altra parte. Comunque, il discorso del Capodanno, che è il 31 l'1, è che... Il problema è la mezzanotte, che sei perfettamente a metà. Quando è San Silvestro? Ma San Silvestro, chi se ne frega? Stiamo parlando di Capodanno. Ma che è Silvestro? Silvestro quello della discoteca? Sì, quello... You make me feel... Grande. My real... Buon Silvestro oh, a tutti! You make me feel... Ma io devo cantare, tu devi andare. Ma no, lo faccio io. Tu fai la presentazione. Cosa dobbiamo fare qua? Dobbiamo semplicemente dire che è l'ultima giorno festa di Capodanno. Sì. È l'ultima giorno. È l'ultimo tu hai dei problemi della settimana. Questa settimana col maschile e femminile, vedi? Deve essere il perineo che ti confonde. È l'ultimo giorno della settimana in mezzo tra Natale e Capodanno. E quindi sentiamo il bambino Alberto alle prese con un viaggio a Varsavia. Ah già, bellissima. Probabilmente. Bellissima quella storia. Me la sono a Cracovia. Anche archiviata sullo smartphone. Sì, guarda, aspetta, ti faccio vedere. Dovrei andarcela qua con le foto. Mi aveva mandato le foto del viaggio che in bello. Polonia. Guarda che questo smartphone, però. Io non so chi me l'ha regalato sto smartphone. Perché alla fine uno deve cercare. Non è che devo solo cercare delle foto, no? Non è che devo fare chissà cosa. Buon ascolto. Devo cercare delle foto. Ma no, dove vai? Io devo. Scusami, mi regala. Regala lo smartphone che dicono c'è dentro tutto, la tua vita, le foto. Alberto mi ha mandato le foto e guarda qua, secondo te trovo le foto io qua dentro? Trovo le foto io? No, dove vai? Mi regala lo smartphone che dicono c'è dentro tutto, la tua vita, le foto. Alberto mi ha mandato le foto e guarda qua. E ora bambini, ricreazione. Comunque adesso c'è la ricreazione, tu c'hai sempre quella faccia lì sbattuta, cos'hai? L'insonnia? Vino Alberto. Insonnia e Polonia. Come fanno Polonia? Ma come rima? Non fa rima. Insonnia, due N, Polonia una sola, quindi fa assonanza. Non vabbè, si dice così. Che palle, cos'è? Linguista. Durante la ricreazione, ma c'ha ragione. Ma no, zitto Tito, dai, che mal di testa. Povero bambino Alberto. Ho avuto un weekend da incubo, eh. Un disastro. Una tragedia. Figurati. Stai sbadigliando, Drago, non lo so. Fai tu, vuoi fare, vedi, vuoi fare l'intervista. Stavi sbadigliando. Non è vero. Vuoi fare l'intervista al bambino Alberto. Sembrava uno sbadiglio. Una noia mortale, adesso te ne accorgi anche tu. Se mi si annoio me ne vado. No, vabbè, allora raccontaci perché c'hai la paranoia. Come al solito è tutta colpa di quei comunisti dei miei genitori. Ma cosa? Se non spieghi, cos'è successo in questo weekend da paura? Dai, su. Cos'è successo? Tanto che se lo dico non ci credete. Oh, mamma mia. Ma perché? Guarda che noi di solito crediamo a tutto quello che dici. Anche quando dici di aver inseguito una tigre, ti siamo stati dietro. Sempre creduto. Sì, ma stavolta il fatto della tigre passa in secondo piano, Qui è una cosa più grave. Qui si tratta di follia. Cioè, per farla breve, questo weekend siamo stati in Polonia. In? In Polonia. Sì, hai capito bene. Fin lassù, in Polonia. In Polonia lo Stato? Sì. Ma vabbè, ma certo, in aereo adesso si fa tutto. Low cost, sì, puoi andare dappertutto. Weekend in Cina. Certo, vabbè, Cina, capitale europea, hotel pagato, tutto bello, insomma. Sì, mi sembra tutto normale, solo che c'è un piccolo particolare, che siamo andati su in macchina. In macchina, ma quanto ci avete messo? Allora, partenza a sabato mezzogiorno, sì. Con calma, la colazione, poi un po' di rilassamento. A mezzogiorno si parte in macchina e siamo tornati stamattina all'alba. Ma sì, quindi quanto ci si mette? Scusa, ma da Milano a Varsavia, se guardi sull'iPad che io ho, l'iPad sono iPad. 1600 km, quindi sono 16 ore di macchina, dai, senza pause. Facciamo così, media di 100. Vabbè, dai, se tu hai in autostrada, vabbè, tutti sfidati potete anche chiedere a mio padre. Ha guidato lui tutto il tempo. Ma che senso ha? Fai un weekend in Polonia in macchina, ma stai sempre in macchina. Allora, era già un po' di tempo? Che mia madre rompeva le scatole sulla storia che non si va mai da nessuna parte in famiglia, che siamo sempre in casa. Succede, no? Succede così, no? Poi sai come fa mia madre? Mette mio padre legge il giornale, noi giochiamo, lei la butta lì, no? Ma perché una volta, non oggi, ma una volta non andiamo via per il weekend? Dai, siamo sempre qui in casa. Mio padre continua a leggere il giornale, noi a giocare, la ignoriamo. Poi il giorno dopo però mia madre riattacca. Facciamoci sto weekend, rilassiamoci un po', siamo sempre in casa, lavoriamo. E dai. A un certo punto mio padre sbrocca, no? A quel punto deve scegliere. Cioè, o ammazza la mamma oppure la fa contenta. Vabbè, quindi meglio farla contenta. E mio papà sceglie sempre di farla contenta. E meno male. Comunque basta leggere i giornali per capire che in molti casi invece il papà sceglie l'altra soluzione. Quello che vero. Quello succede. Però ho capito, bambino Botulino, il tuo povero papà. Ma il Botulino è velenoso. Ma prima o poi lo usi, no? Bambino. Comincia con la B. Bertolino. Vabbè, allora, il tuo povero papà, no? Ha fatto contenta tua madre, però tua madre aveva chiesto un po' di relax. È quello che non capisco. Relax. Relax. È il relax. Appunto, Milano, Varsavia, Milano, in macchina, in un weekend, non è esattamente relax. Non è quello che si considera. Ma infatti quello che dico anch'io, no? Questi sono pazzi. E dovevate vedere mio padre con la sua appunto mentalizzata a 160 all'ora, giusto per non perdere neanche un minuto. Vabbè, 160 all'ora. Milano, Varsavia non si è mai fermato, Ma come? Neanche una volta. Ma la pipì? Ecco, bravo, la pipì. La pipì era un problema. E perché io ogni tanto frignavo, no? Che dovevo fare la pipì. E loro? Ma tieni, no? Siamo appena partiti. Ma vabbè. Appunto, dico, siamo appena partiti. Se mi scappa già adesso, ora del confine, devo farmi ricoverare. Dovevi pensarci prima. Adesso te la tieni. E quindi non vi siete fermati? No. Ma non neanche a Francoforte uno. Non so neanche se si passa niente, di lì. E come hai fatto in pratica? Io ho pregato. Hai pregato? Ho recitato dei mantra. Tipo i maratonetti, no? Vabbè. Ma a che ora siete arrivati poi a Varsavia? Più o meno eravamo... Allora... Se mi ricordo bene, eravamo a Varsavia alle 4:30 del mattino. Vabbè, dai, una bella ora per arrivare. Tra l'altro, dopo un viaggio allucinante, Scusa, 4:30 di domenica? Di domenica mattina. Ok. È su lunedì. Tra l'altro, dopo un viaggio allucinante, perché mia madre poi non stava più nella pelle. E diceva mio padre, ma dai, vai un po' più forte, no? Come? Dai, che poi non abbiamo tempo di vedere tutto. Ma... E mio padre schiacciava, Schiacciava sull'acceleratore. Io e mio fratello eravamo terrorizzati, immobilizzati. E noi, papà, vai piano, per favore, dai, abbiamo paura. E mia madre, zitti, fatevi gli affari vostri, va. E tu schiaccia sto acceleratore. E poi la strada era anche ghiacciata, Ma no. E no, perché lì, Austria, Germania, Polonia, sono paesi freddi, Ma sì, ma poveri bambini. Un incubo. Poi, arrivati lì, tutti freddoliti, no? Perché mio padre il riscaldamento lo tiene un po' basso, perché dice che fa male. Ma come? Quindi, infreddoliti, un sonno allucinante. e ci siamo messi a camminare per la città, no? Ah. Che era deserta quell'ora lì, dormivano tutti. I polacchi, tutti, certo. I miei tutti pronti con la loro bella Lonely Planet della Polonia, e camminando ci leggevano i nomi delle chiese, delle piazze, dei monumenti. Però guarda che è un'idea, la città è deserta, sì. Tu cammini e il tuo papà, la tua mamma ti leggono le descrizioni dei palazzi. La città è tua, in pratica, cioè, ma sì. Una magia. Sì, è tua, ma 16 sotto zero, però. Vabbè, dai, scarpe rotte, pure bisogna andarlo, dice anche la canzone. Poi, niente. 10:30 del mattino, mio padre ha cominciato a dire: però io tornerei anche a Milano. Ma come? Perché ormai abbiamo visto quasi tutto, no? E mia madre: ma aspetta, dai, sempre con sta fretta. Abbiamo ancora qualche ora, sfruttiamola fino in fondo, no? A quel punto, allora, verso le 11, mio padre dice: facciamo il tempo a vedere anche a Cracovia. Cracovia sono 500 chilometri. Allora via, mia madre ha fatto: ai, Cracovia, bambini, siete contenti? È la città, città del Papa, no? La città di Karol Wojtyla. Chi era? Era il Papa che c'era prima, ma tu non lo puoi sapere. Vabbè, comunque allora, la città è importante. Cracovia, via, di corso, autostrada, no, autostrada non c'è in Polonia. Strada, arrivavo a Cracovia, il tangenziale. Sì. E però era troppo tardi. Allora a quel punto, già che c'era Deutschland, Österreich, mio padre ha detto: Teresa, andiamo a Milano adesso. E Cracovia ci sta stati, possiamo anche dire che ci sia stati, no? Poi dopo leggiamo solo le planete. Ma in tangenziale, vabbè. Vabbè, era troppo tardi, mio padre deve essere al lavoro la mattina, io lo filo. E quindi girato via la macchina giù. Ormai stralunati, si parte per Milano. Siete arrivati stamattina, adesso tu sei qua all'asilo, lunedì mattina. In queste condizioni. Vabbè, ma insomma, ma Varsavia, Cracovia no, ma Varsavia almeno ti è piaciuta, insomma, è una bella città. Ma chi l'ha vista? Io l'ho distrutto, avevo solo tremendo. Io sognavo solo di essere a casa davanti alla TV, quindi camminavo e guardavo in basso, guardavo solo per terra. Come? Quindi ho visto solo del gran pavè, pavè polacco però, È finito, il 2011 è finito, quindi, domani è finito. Quindi buon 2012 a tutti e grazie per tutti quelli che, a tutti quelli che ci hanno aiutato a fare Chiedo Asilo nel 2011. A cominciare da Carmelo Lauricella e poi con Laura Faggini e poi anche Guido Scotti, giusto, ma per questa settimana Perineo è stato con noi. Non si può dire quindi poi c'è Daniel Plenz, Tommaso Varvello, Guido Bertolotti, Alberto Caserini, Ioris anche, cioè, e Chiara, come si chiama il cognome? Chi lo Gildo! Gildo, infatti. Chi altro? Scriveteci tutti i nomi che volete che ringraziamo, così facciamo una bella settimana di apertura dell'anno con un elenco lunghissimo. Buon anno! Buon anno!